Eccoci qua, 27 luglio 2020, è passato un mese dall'ultima volta che abbiamo fatto la trasmissione. Molte cose sono successe. Una è quella che ci siamo spostati fisicamente in un posto in cui potremmo essere tutti insieme. Dico potremmo perché poi i casi della vita vogliono che ciò non sia, quindi più o meno l'assetto attuale, diciamo, fisico della dislocazione di Dan, Linoy e mio è abbastanza per certi versi simile a quello che era prima, quello che è nella situazione migliore forse in questo momento, poi sono io che sono un po' in compagnia. E, va bene, allora iniziamo la trasmissione di oggi, accidentata dagli eventi, ha due temi sostanzialmente. Il primo è la scuola, l'avevamo detto, ce l'avevamo ripromesso, ci abbiamo un pochino lavorato, ci lavoreremo ancora perché il tema è, la questione rimane aperta e il grosso interrogativo è per quello che succederà a settembre. Però iniziamo, diciamo così, a fissare dei paletti su quel che è stato per non perdere traccia e per in qualche modo avere un punto di partenza, per non dimenticare così quello che è successo e da lì partire per le considerazioni che saranno necessarie da fare a settembre. Bella bro! Che c'hai, Sigrut? Ullala, che faccia torva! E che ci fai qui dietro la scala? E È che non ci si può più andare. dov'è che non si può più andare, Sigrut? Oh, ma ce la fai? In cortile, Fra, non vedi? In cortile. Sono ancora lì? Chi? Quel gruppetto di genitori? Ah, chissà che cazzo ci fanno in cortile. Oltretutto piove. Fra, non sono genitori. Quella è la Digos. Ah, sì, certo, la Digos. E io sono Robin Hood. È la Digos, Fra, te l'assicuro. Sono qui per controllare il cortile. Il cortile? Ma sei diventato scemo, Fra. Cosa vuoi che interessi la Digos nel nostro cortile? Perché si fuma? Ma cosa gliene frega la Digos che si fuma oppure no? La Digos, se non lo sai, è la polizia politica, non la narcotici o la buon costume, sempre che si possa ritenere mal costume fumare in cortile. E che ne so io? Forse c'è un problema politico. Sì, forse è che temono la disoccupazione anche loro e fanno problemi dove non ce ne sono. Però, certo, la cosa è seria, da non prendere sotto gamba. Fumano in tanti, ma sembra che questa cosa non interessi a nessuno. E che vuoi dire? Voglio dire che a nessuno frega del perché fa le cose, per divertirsi, per farsi del male, per sembrare più grande, per trasgredire, per difendersi dal logore della vita moderna, boh, chissà perché. Sicuramente. Comunque, non per parlarne, non se ne parla mai, non ne parla mai nessuno. Forse perché si fa così e basta. Bravo, poi viene la Digos. Magari arriva davvero anche Robin Hood e tu assisti a uno scontro titanico, sperando solo che una scheggia non ti colpisca, come i tuoi insegnanti. Cosa gli interessa se la polizia politica bivacca in cortile? Gliene frega forse di quel che ti succede? Sembra che non gli freghi nulla neanche di quel che succede a loro stessi. E se la Digos fosse qui per loro, cosa direbbero? Ma che bella bandiera che c'hai! Asta in bioplastica super leggera, telignifuga, perfetta direi per stare lì dietro la scala. Bella, sì, l'ho presa da Amazon, ordinata ieri, è arrivata questa mattina, anche se risulta spedita 2 giorni fa, è strano. Oh, ma Amazon sa quello che ti serve prima che lo sappia tu stesso. Potremmo chiamarlo marketing induttivo. Probabilmente Amazon ha già mandato anche degli stracci per pulire il fango lasciato nel latte dagli sbirri questa mattina entrando. Invece in classe nostra i banchi li ha mandati bassi, come quelli delle elementari. Sarà perché abbiamo usato i punti rubati alla scuola vicina. Sono meglio quelli della quarta C. Loro li hanno presi con l'S lunga. Oh, basta, mi sono rotto, torno in classe. E almeno si litiga un po'. Rifletti, Fra. La scuola è rimasta uno dei pochi luoghi in cui tante persone si incontrano tutti i giorni, e questo per diversi anni di seguito. Si conoscono, si riconoscono, parlano liberamente. È una specie di reperto archeologico di quel che furono le vecchie pericolosissime fabbriche e le scuole di molti anni fa, dove vennero elaborati prima e praticati poi strumenti di rivolta che ai tempi fecero tanta paura. Le fabbriche in gran parte le hanno smantellate e smembrate, le scuole ancora no. Visto così, anche un cortile può sembrare pericoloso e offre buoni argomenti a un funzionario che tema gli effetti della crisi sul suo posto di lavoro. E poi c'è il marketing, i soldi, gli interessi privati che entrano in classe. Tutte queste cose vanno protette, no? Dai, vieni via da lì che ti ammali, Sturgis. Ma vaffanculo. Ecco, questo testo è l'ultimo, è tratto dall'ultimo più recente volantino del gruppo Franti, un gruppo eterogeneo di insegnanti, studenti, ex insegnanti, ex studenti, che così come definito potrebbe comprendere chiunque, e che si occupa di questioni della scuola da molto tempo e che ha pubblicato, noto diciamo per aver pubblicato un libro, un libretto illustrato appunto sulla scuola e non solo, il famoso Trattatello. Con loro abbiamo voluto chiacchierare un pochino delle questioni della scuola. Premetto che, come molti di voi che ci ha già sentito avrà capito, non è esattamente questa una radio e quindi ci siamo permessi il lusso in questo caso di dare dei contributi anche un pochino più lunghi di quello che lo standard radiofonico normalmente prevederebbe. E andiamo adesso con la prima parte della chiacchierata con Franti. Allora Andrea, mi spieghi la proceduralizzazione della didattica? Uguale tramonto della centralità, sostituibilità, smaterializzazione della figura del docente. Che cosa intendi dire con questo? La scuola fino alla DAD, fino all'emergenza Covid, praticamente rappresenta un po' uno degli ultimi spazi fordisti che vengono attraversati da diverse tribù, portatrici di interessi diversi, e proprio da questa dialettica in passato è nata l'elaborazione e il conflitto rispetto all'esistente esterno alla scuola. Diciamo che l'offensiva per togliere potenza a questo processo, che è riuscito in diversi momenti storici con la Gelmini, con la Moratti, anche a bloccare determinati tentativi di privatizzazione e di aziendalizzazione, con il Covid diciamo che gli ultimi baluardi di resistenza hanno ceduto, anche a seguito di una progressiva di un progressivo smantellamento dell'RSU e quindi di un progressivo abbattimento delle resistenze fra virgolette sindacali, che adesso si sono trasformate praticamente in una sorta di organizzazioni di carattere corporativo. Quindi, perché si parla di proceduralizzazione? Effettivamente la didattica a distanza, ma in generale la smaterializzazione della didattica e la digitalizzazione mirano, partendo da lontano, poi si potrebbe ritornare su questo, però mirano da almeno metà degli anni 90 a cambiare radicalmente la relazione umana all'interno della scuola. E per fare questo si parla, si allude proprio nei documenti ministeriali attuali alla volontà di far perdere centralità alla figura dell'insegnante, e questo viene spacciato attraverso le parole d'ordine del passaggio da una formazione basata sulle conoscenze ad una formazione basata sulle competenze. Questo che cosa implica? Implica che gli studenti si trovino assolutamente deprivati di una serie di strumenti critici che derivavano proprio anche da una sorta di esplorazione del pensiero passato, che veniva poi ordinato soprattutto negli ultimi tre anni, soprattutto negli ultimi due anni, diciamo, nel biennio finale, in termini organici, in maniera tale che poi ognuno potesse costruire un proprio giudizio, potesse costruirsi un proprio giudizio. Invece il passaggio alle competenze mira proprio ad una forma di passività rispetto all'attività didattica e ad una forma di esecutività legata specificatamente all'impiego dei device tecnologici, che permette da una parte di agitare la sirena della fascinazione tecnologica che oggi impera e che sembra coincidere tu cura con ogni forma di eventuale progresso dell'umanità, e in secundis mette in mora la parte interpersonale della relazione didattica. Questa cosa qui, anche questa è una cosa che origina da lontano con l'introduzione del registro elettronico, con la trasparenza totale, e con che è arrivato con la didattica a distanza a, a forme di tracciabilità e di controllo sulle performance sia per gli studenti che per i docenti, che dire orwelliane è dire poco. Il concetto del protocollo è una metafora che credo calzi a pennello su quel che tu hai detto, cioè il, la procedura protocollare. Grazie. No? Si segue adesso, ci seguono delle linee prefissate e questo, questo protocollo è, fa diciamo capolino a una cultura scientifico-tecnica più che umanistica, quindi prende il sopravvento sempre di più la cultura scientifica nell'accezione però più tecnica. In questo caso quello che viene tolto di mezzo è l'elemento concreto della presenza concreta, quindi anche con quei suoi tratti di casualità che ha il fatto di avere un certo insegnante oppure un altro, ma che ha come lato positivo la possibilità di prodursi di una situazione sorgiva, nuova, attraente, in cui passino dei, dei flussi di sapere, ma anche degli affetti, a beneficio invece del, dell'idea della standardizzazione. Per cui appunto non è più importante che ci sia uno o un altro insegnante, potrebbe esserci anche un qualsiasi addetto, purché siano rispettate determinate procedure che poi sono supportate tecnicamente. Questo è un po' il, e in questo appunto vedo una vicinanza estrema con le forme generali della, della politica. Guarda, la questo tipo, questa tipologia di governance secondo me si è inverata in maniera violenta con il passaggio al registro elettronico, che ha implicato un cambiamento radicale della, della relazione non soltanto fra il docente e lo studente, ma anche fra la scuola e i genitori. Mm-hmm. In, in termini di controllo in secundis attraverso il sistema di valutazione nazionale, che sta subordinando di fatto e quindi sta diversificando anche l'offerta formativa presente sul territorio a seconda dei livelli che vengono, dei livelli di performance, dei risultati quantificabili che ogni singola scuola riesce a produrre, con la possibilità non ancora inverata di che però è contemplata all'interno del sistema di valutazione nazionale, che si compone dell'INVALSI con tutto l'apparato di test, dell'INDIRE e degli ispettori, in maniera tale che una volta stabilito il livello di risultato è possibile attraverso gli altri due enti, prima gli ispettori e poi l'INDIRE, commissariare le singole scuole o nella loro globalità o addirittura all'interno di singoli corsi. Questi... On my way now, got on my traveling shoes. On my way now, got on my traveling shoes. Well, I'm on my way now, got on my traveling shoes. Oh, them shoes now, got on my traveling shoes. Oh, wait, child, got on my traveling shoes. Well, I went to the church, I walked right in. The saints began to pray, and the Lord came in. I went to the altar, didn't find a fault. The saints begin to pray, and the fires did halt. I'm on my way now, got on my traveling well, shoes. Well, I'm on my way now, got on my traveling shoes. Oh, them shoes now, got on my traveling shoes. Well, child, got on my traveling shoes. Well, I went to the valley, didn't go to stay. Bene, lasciamo Armstrong e continuiamo la nostra chiacchierata col gruppo Franti sulla scuola. In qualche modo sono le premesse a quanto è accaduto nelle settimane scorse. Un'immagine a volo d'uccello sulle tendenze forti in atto nella scuola in Italia. E trattando invece propriamente della situazione che si è determinata col confinamento, quali sono le cose da mettere in risalto innanzitutto? Con il confinamento Allora, è sicuramente l'unico dato che mi viene da sottolineare come positivo è che gli studenti si sono resi conto della pantomima autoritaria della struttura scolastica, nel senso che mentre per anni si sono trovati sotto lo scacco della pressione istituzionale agita anche proprio sui loro corpi, sul disciplinamento dei loro corpi, all'improvviso con il Covid, cioè la scuola non solo si è smaterializzata in termini di processi di apprendimento, ma proprio la centralità del luogo dove confluire è esplosa come una bolla di sapone, per cui anche il principio autoritativo che si trascinava dietro questa abitudine alla frequentazione, alla frequenza e all'obbedienza e al disciplinamento, di colpo non esisteva più, e quindi anche gli studenti si sono resi conto in termini fattivi di quanto fosse artificiale questa concezione. E questa però purtroppo mi viene da dire che è l'unica vera, è l'unico lato positivo, perché invece il lato negativo è l'accelerazione potentissima, già fortemente voluta nella legge della buona scuola sulla smaterializzazione e sulla digitalizzazione, che ha trovato l'alibi e la manna al contempo con l'emersione del Covid. Questo ha implicato che per il primo mese e mezzo gli insegnanti hanno operato in termini di didattica a distanza per motivazioni individuali, per cercare di non perdere il contatto con gli studenti. Diciamo che da prima di Pasqua a immediatamente dopo le vacanze calendarizzate a Pasqua, che chiaramente non sono svolte, però a parte questa calendarizzazione che ha implicato un momento di stacco, dopo dal MIUR sono arrivate delle precise linee di condotta per istituzionalizzare, per regolarizzare, per standardizzare gli interventi di didattica a distanza. Questo ha implicato che all'inizio ogni singolo docente si appoggiava a diverse piattaforme, utilizzava un po' di strumenti tecnici che gli erano più consoni, e già qui c'era il grossissimo vulnus del fatto che una messe incredibile di comportamenti residuali e di dati sensibilissimi veniva lasciata in completa gestione a dei sordidi personaggi che hanno costruito le loro fortune sulla vampirizzazione dei dati, e già questa è una contraddizione fortissima. Ma poi dopo Pasqua il MIUR ha stretto dei protocolli proprio con Google e con la famosa piattaforma di G Suite, che è stata praticamente adottata, non dico urbi et orbi, però ci sono state indicazioni per una forma di per uniformare, diciamo, le condotte dei singoli istituti, e quindi non c'è stato neanche più bisogno della liberatoria per la trattazione dei dati alle famiglie, agli studenti e per i docenti. Cioè di default ci si fida di Mr. Google come provider e come custode dei dati. Questo è assurdo. La seconda cosa veramente assurda è che con le linee guida che sono uscite adesso, e che però in questo sentore viene ripreso ed è un'accelerazione ulteriore, si parla della costituzione, visto che non ci sono degli spazi fisici nella scuola, si parla dell'apertura al territorio, che detto così potrebbe anche essere una cosa bellissima. Il problema è che questo implica che il consiglio d'istituto e il collegio docenti venga affiancato da un ulteriore apparato che si chiama comitato tecnico scientifico, in cui entrano i privati. E se noi abbiniamo questa cosa all'alternanza scuola-lavoro, che adesso si chiama FICTO, si ritorna ad una forma, come dire, soprattutto per i tecnici, cioè esclusi i licei, che si occupano della formazione della classe dirigente, dai licei in giù si ritorna a delle forme di organizzazione della formazione assolutamente dipendente, strettamente connesso e quindi anche fortemente ricattabile da parte del mondo del lavoro. E se vengono costituiti questi comitati tecnici scientifici, diciamo che la cosa viene formalizzata e istituzionalizzata definitivamente. Come già contemplato nella legge 107, in nome dell'emergenza, i presidi hanno assunto, grazie alle ultime ordinanze ministeriali dell'Azzolina, soprattutto la 9 e la 11, dove si parla specificatamente dei poteri dei dirigenti, si dice che cioè, c'è un tentativo di trasferire tutti gli organi collegiali sulle piattaforme, E voi immaginatevi come si può gestire un dibattito con 130 persone collegate nello stesso momento e che devono tenere tutti quanti i microfoni staccati. Pensate alla discrezionalità nel poter poi gestire gli interventi in termini di tempo, in termini anche di confronto, in termini di feedback con gli altri colleghi. Per cui c'è sicuramente un'estinzione della già malata collegialità negli ultimi anni, cioè viene sancita definitivamente la morte della collegialità a tutto favore degli interventi discrezionali e assolutisti del dirigente scolastico, che proprio si dice esplicitamente che non è più legato, se non in termini consultivi, al parere del collegio docente, del collegio docenti anche sulla didattica. L'altra cosa che stiamo vedendo nelle scuole superiori è che, data la competenza tecnologica di alcuni che già si erano differenziati con il ruolo, con la funzione strumentale di animatori digitali, adesso i presidi, che appunto acquisiscono questo potere assoluto, possono spostare i docenti non ancora di ruolo, cioè sia quelli non ancora di ruolo, sia quelli di ruolo, nella funzione di potenziamento. Cosa vuol dire? Che nelle singole scuole ci sono delle cattedre, ci sono delle materie contemplate per l'indirizzo. Con le immissioni in ruolo della legge 107, alcuni docenti sono finiti territorialmente in istituti dove non era contemplata la loro materia di insegnamento, e quindi questi docenti hanno cominciato a fornire dei servizi a discrezione del preside, per esempio nella gestione della biblioteca o nella costruzione di progetti. Cooptati. Sì, cioè nella migliore delle ipotesi dirottati su progetti anche interessanti e anche di complemento per la formazione degli studenti. Ma questo implica però, se la vogliamo vedere in termini non entusiastici, la possibilità per i presidi di costruire delle zone grigie, di costruire degli ambienti dove poter mobbare non soltanto i precari che erano già ricattabilissimi prima, ma poter spostare nel ruolo di potenziamento anche eventuali insegnanti di ruolo che, godendo di una posizione più solida, magari si permettevano di rompere un attimino più la prassi. In sintesi, l'utilizzo massivo della tecnologia implica una differenziazione sia a livello di accesso cognitivo ai saperi, sia a livello di fruibilità degli spazi deputati al passaggio dei saperi. La scuola. This train don't carry no gamblers. This train don't carry no gamblers, crap shooters and midnight ramblers. Lord, this train goes on to glory. This train goes on to glory. This train goes on to glory. No one could ride it but the pure and holy. Lord, This train. Now I put my foot on the golden ship, and the ship done left this show, and I'm going away to the angels, and I ain't coming back no more. This train don't pull no liars. This train. Ecco, Loco 19. Aia, continuiamo la nostra conversazione, continuiamo a ascoltare la nostra chiacchierata che abbiamo fatto col gruppo Franti. Ratifica le differenze di classe sulla base di problemi tecnici, in questo è assolta da ogni altra responsabilità. Non è colpa della scuola se uno vive in 8 in 30 metri quadri. Cosa può fare la scuola per risolvere? Dà una possibilità che è uguale per tutti. In realtà è un meccanismo proprio classico di tecno-assoluzione. Lo strumento in realtà non solo registra, ma addirittura amplifica le differenze sociali che stanno dietro l'uso di questo strumento. soprattutto gli insegnanti tecnoentusiasti hanno utilizzato i device in termini assolutamente poco professionali e quindi facendo saltare completamente ogni forma di diritto alla disconnessione. Questo implica sindacalmente il fatto che viene meno la distinzione fra tempo lavorativo e tempo libero o liberato, e non soltanto per noi che lo facciamo di professione, ma pensate anche agli studenti, gli studenti che si trovavano a dover frequentare, stare davanti al video, frequentare le video lezioni per un monte ore che solitamente occupava buona parte, almeno 4-5 ore della mattinata, e poi si trovavano a dover espletare i propri compiti di ricerca o di esecuzione sempre sulla tastiera, e quindi rimanevano attaccati al computer, cioè quelli più, come dire, più ligi al dovere, per un numero ulteriore di ore pomeridiane. Questo è un problema che si è posto anche per i docenti e che praticamente corona il processo che è stato tentato più volte di far saltare le 18 ore di lezione frontale. La morte della collegialità è vero che allude al silenzio-assenso, ma il silenzio-assenso abbinato al cambiamento delle modalità di reclutamento del personale e allo strapotere assolutistico dei dirigenti scolastici ha come conseguenza diretta il fatto che, allora, legislativamente si tende alla costruzione di albi territoriali dove i dirigenti scolastici possano attingere per dei contratti triennali. Se poi chiaramente l'insegnante è funzionale, lecchino e scodinzola, chiaramente poi il dirigente scolastico se lo tiene ben stretto. Viceversa, allo scadere dei 3 anni l'insegnante può essere rimandato nel ghetto dell'albo. Adesso invece si apre questa possibilità di mettersi d'accordo con il comitato tecnico-scientifico dei privati che tendenzialmente finanziano, integrano i magri, cioè, non i magrissimi, quasi gli inesistenti finanziamenti da parte del ministero, cacciandoli di tasca propria e quindi già influenzando anche la didattica, con il fatto che il dirigente scolastico può allegramente scegliere, non tanto in base alla competenza professionale quanto all'orientamento politico-religioso, a chi dare. E a livello di servitù volontaria. E a livello di servitù volontaria. E ovviamente a noi non sta bene, perché per noi l'idea di scuola è un'idea di vita, no? Di vita, di crescita. Quindi qui verrebbe da fare subito la dicotomia su cui noi siamo schierati, sulla prima, tra esistenza e funzionamento, no? Noi siamo per l'esistenza, non certo per il funzionamento. La DAD è stata una rottura, no? È stata un qualcosa comunque che ha sparigliato molte carte, nel vero senso della parola, perché si è passati alla digitalizzazione. Però, e attenzione, e però anche su questo c'è da dire, appunto, a conferma di questi dubbi che mi vengono su quello che pensano gli insegnanti, che negli ultimi anni, io insegno da 20 anni, potrei dire già da 20 anni, secondo me la didattica intesa, sì, nella parola didattica c'è dentro la parola tecnica, no? Di insegnamento, però intesa come anche passaggio di informazioni insieme a tutto quel discorso di vita di cui si parlava, comunque era in sofferenza, era in fortissima sofferenza. Con la didattica a distanza proprio è arrivata alla morte. La base è molto meno entusiasta di come venga descritta tendenzialmente dagli organi di stampa, dagli organi di comunicazione ufficiali, però il problema grosso è che c'è una totale incapacità di attivarsi perché questi processi vengano bloccati. Adesso con la DAD, né alla fine dell'anno scolastico, e purtroppo in prospettiva sembra che non ci siano sentori in questo senso, a settembre, come dire, le norme ministeriali scendono giù con la piena e travolgono la vita attiva, come dire, dei singoli insegnanti, e questo è un problema veramente serio. Fino a questo momento abbiamo parlato della macchina scuola, ma non abbiamo ancora fatto una riflessione su una soggettività, quella degli studenti. Per esempio, sarebbe interessante, visto che insegniamo quasi tutti, no, qua, a capire che cosa è successo ai ragazzi in questo periodo. Alla mia riflessione rispetto a quello che ho visto e constatato è che non c'è stato uno scatto dalla maggior parte degli studenti. Cioè, io pensavo e speravo che desideri altri affiorassero, no? Appunto perché veniva meno la centralità della scuola, dello spazio scuola, eccetera, quindi fuori dal disciplinamento dei corpi, eccetera, eccetera, questo tempo liberato in qualche modo da queste, potesse far emergere desideri altri, no? Quindi, ma ho visto che non, cioè quel che ho visto non è sempre il fatto che gli studenti sono immersi in questa materialità che è un cerchio magico che condiziona fortemente le loro vite. Io ho l'impressione che, concordo con quello che hai detto tu, che il confinamento sia stato l'ultimo atto del prima e quindi ha espresso il livello del nulla precedente. Pensiamo che investire nella scuola sia effettivamente un interesse di tutti? Io ti rispondo che questa è l'ennesima impostura, perché Lazzolina fino a mo' ha emesso dei documenti in cui si parla di interventi strutturali, sono stati stanziati insomma un po' di risorse, sono state destinate alla scuola, ma in termini ancora prima dell'edilizia scolastica che mette a repentaglio i corpi fisici degli studenti, certo, tutti quanti sulla digitalizzazione. Per cui a me il fatto che si investa sulla scuola nell'ottica che vengono comprate le LIM e non vengono pagati i precari, che costituiscono peraltro il 60% in molti istituti anche lombardi del corpo insegnante, mi lascia, ma non dico non è che mi lascia perplesso, mi schifa, perché è l'ennesima presa per il culo rispetto al fatto che si parla di investimenti ma mai di investimenti strutturali, cioè, ed è questa la cosa veramente preoccupante, che lascia anche poco spazio alla riemersione del conflitto. Per cui bisognerebbe investire, sì, ma investire nell'ottica di creare degli spazi di fruizione, degli strumenti, che sia collettivo e che sia gratuito e che sia completamente nelle mani degli studenti. Per esempio, ci sono degli esami, le decisioni vengano, diciamo, dal basso, ci sia una sorta di autogestione. In questo senso timeo Danaos et dona ferentes, cioè il fatto che loro portino le caramelle e i soldi, o che dicano che vengono versati dei soldi, ciò non implica che questi investimenti vadano a favore delle famiglie e degli studenti in primis, e tantomeno a favore dei docenti. Bravi tutti. Bene, finita così questa prima conversazione col gruppo Franti, vi ricordo il loro trattatello di anatomia ergonomico funzionale contemporanea, che trovate sul blog franti.noblogs.org. Continuiamo questa settima puntata di Loco 19 cercando di affrontare l'argomento da un altro punto di vista. Domani ho un esame la mattina e l'incontro per la tesi di laurea il pomeriggio. Tutte le mattine 9:30 13:30. Domani c'è lezione, sì, abbiamo la revisione di un progetto che stiamo seguendo in queste settimane. Io spero, lo spero davvero davvero tanto, che ad ottobre torneremo a scuola. Infatti mi vorrei sparare, perché io, per lo stato psicologico in cui sono, avrei fatto partire il weekend oggi. Rimanendo tutto il giorno davanti allo schermo, davanti alla luce dello schermo, i miei occhi erano... Per un primo periodo non mi faceva andare a dormire. Cioè, non riuscivo ad addormentarmi. Secondo me, durante questa quarantena siamo passati dallo sfruttamento massimo di tutti i mezzi di comunicazione che avevamo a disposizione all'uso minimo indispensabile, perché non ne potevamo più. c'è il computer che non ne ava più perché praticamente non è stato spento negli ultimi 2 mesi. Ci sono state giornate in cui davvero mi facevo 10 ore in videochiamata, cioè, proprio vedi il computer e vorresti buttarlo fuori dalla finestra. La lezione, per quanto possa essere attiva, è comunque un atto di incameramento, si può dire, comunque, nel quale tu acquisisci, assorbi. Non ti fa mai entrare nell'ottica di sto lavorando, sto partecipando a una lezione, ma è sempre sono io nella mia casa e non distingui più i vari momenti della giornata. Questa sfida del dirsi ok, sei da sola in camera, devi concentrarti, devi fare il lavoro, devi studiare per domani, che non sempre funziona. Non dico che avrei potuto fare la stessa cosa da autodidatta. L'avrei vissuta male. Boh, forse perché abbiamo bisogno di maggiore controllo, non lo so, non ti saprei dire esattamente qual è la motivazione. La tecnologia ci aiuta assolutamente, però sicuramente questa esperienza ci ha fatto capire che effettivamente tante cose che davamo prima per scontato, che fanno parte dell'essere umano, la socialità, la persona fisica, sono essenziali e non possiamo barattarle con dei mezzi tecnologici. Se penso anche solo alla quantità di informazioni che un professore ti può dare in 3 ore di scuola davanti a te rispetto a quelle che ti dà in 3 ore davanti a un computer, in cui mezz'ora buona la può anche perdere per problemi di connessione. Per quanto comunque ci sono stati dei corsi che ho affrontato in maniera piacevole in formazione a distanza. Certo, ci possono essere state anche delle lezioni molto avvincenti, molto interessanti, in cui si parlava, si dibatteva e magari potevano volare di più, però in generale una volta conclusa la lezione sempre stavi dentro quelle 4 mura di casa, dici adesso che faccio? Ti parlo anche di miei amici che fanno università normali con lezioni frontali, hanno le lezioni registrate su YouTube praticamente. Quando vogliono vanno a prendersi la lezione e si fanno un'ora di studio. Per loro la concentrazione è ancora peggio, perché lì davvero è tutto nelle tue mani. Poi, che si possa implementare per dare determinate possibilità maggiori, che sia un plus valore, non che sia la formazione fatta così. Dici sì, sembra ieri che è iniziato, ma la giornata sembra non finire mai. Indossare il vestito buono in alcune occasioni significa che riconoscere che quell'occasione è un momento differente da tutti gli altri. Ecco, come diceva Franti alla fine della chiacchierata, interessante sarebbe capire che cosa ne pensano, come hanno vissuto questo periodo, che cosa si aspettano i ragazzi. Abbiamo quindi avuto una conversazione con un gruppo di studenti dell'università e delle scuole superiori. La mandiamo. Tenete conto che questa conversazione è stata fatta praticamente quasi un mese fa e vedrete che anche da questo punto di vista non è che è cambiato molto, ci sono delle certezze in qualche modo sono emerse o delle determinazioni più precise. Andiamoli ad ascoltare. Che cosa è successo? Vabbè, io intanto la prima cosa che direi è che da universitario, in generale da studente, è molto brutto che l'ultima cosa che riaprono sono le università, nel senso che ormai è riaperto praticamente tutto tranne gli stadi, però l'università non è ancora aperta e quindi c'è questo problema materiale proprio delle aule studio, che sono importanti perché studiare 6 mesi a casa non è lo stesso che poter andare in aula studio, e non c'è motivo per cui siano chiuse, perché se apri i ristoranti puoi aprire anche le aule studio, e quindi discutere con i propri compagni di corso, farsi aiutare in qualche cosa, proprio l'ambiente universitario è stato completamente azzerato. Ad esempio esempio a Padova, dove studio io, la maggior parte sono fuori sede e non sono fisicamente a Padova, perché ci sono, diciamo, due tipi di fuori sede: quelli che vengono proprio da molto lontano, tipo dal sud, e quelli che invece vengono dall'intorno di Padova, da città venete sparpagliati vicino. Pendolari, esatto. I pendolari non si sono più visti, e i fuorisede sono tornati prima del lockdown a casa loro, e quindi proprio, cioè, la città universitaria non è più città universitaria e l'ambiente universitario non esiste più, perché non puoi riprodurlo online. È una prima roba che io ho sofferto personalmente, perché studiare a casa, non potersi confrontare, è un problema. Una persona al primo anno deve essere magari, cioè, è stato estremamente traumatico, comunque dopo sei mesi che uno è arrivato in una nuova città, essere chiuso in casa senza conoscere nessuno, senza avere nessun tipo di rete sociale, nessun modo per farsela. E comunque io, se fossi stato in quella condizione lì, sarei tornato indietro subito, perché non conosci nessuno. Se ti viene la febbre, cazzo fai? I tuoi sono in Sicilia. Quindi questa è una prima roba, è importante riaprirla anche senza fare le lezioni, l'università. Poi sulla DAD ci sono varie considerazioni. La DAD, non, nel senso, è diversa se uno fa le lezioni live oppure le registra, perché in università, a differenza del liceo, moltissimi professori hanno registrato le lezioni senza farle dal vivo, e quindi hanno azzerato completamente le interazioni, se non tramite form. Allora, su Zoom si facevano le lezioni live, ma non tanti professori le facevano. Mm-hmm. Invece, se uno voleva caricare su Moodle, che è la piattaforma di Ateneo, le lezioni, lo faceva con Kaltura. Kaltura è la versione didattica di YouTube, quindi è di Google, ed è, infatti, ha proprio la stessa interfaccia, è proprio come YouTube. Infatti il video, il professore poteva caricarlo su YouTube o su Kaltura, o direttamente su Kaltura, però entrambi poi venivano inseriti in Moodle. È la piattaforma dove prima si caricavano solo le slide, e adesso oltre alle slide si caricano pure le lezioni. Perché voi quanti, per dire, quanti eravate a lezione? Perché ci sono dei corsi anche molto numerosi, sì, o no? Classi da 200 al primo anno, cioè al triennio di psicologia. Quindi una lezione anche live, online, con 200 persone è ingestibile, però, no? Sì. Cioè, perché se uno vuole parlare è un casino, no? Parlare è escluso, cioè al massimo mandare qualche messaggio in chat. Il punto è che anche il professore non è che, cioè, non può stare dietro la chat mentre spiega, e quindi poi l'interazione comunque di fatto non avviene. Con le lezioni registrate c'erano i form sulla piattaforma, e uno poteva fare delle domande e il professore rispondeva in tempo reale. No. Come una mail pubblica, sì. Sono tipo un forum. Sì. Un forum ad argomento. E voi invece? Siamo partiti tardissimo rispetto alle altre scuole, però quello dipende da professore a professore, e nella mia classe in particolare l'ha fatto solo tre professori. Quindi io mi trovavo certe mattine che avevo una lezione a mezzogiorno e poi basta. Però non biasimo i professori che non hanno voluto fare lezioni, in realtà. Cioè, nel senso che era surreale, che era più inutile che utile. La cosa bruttissima, secondo me, è stata che questa cosa entra proprio nelle case delle persone, no? E mostra delle disparità sociali enormi. Cioè, che se in una classe sono tutti nello stesso contesto, tutti sullo stesso livello più o meno, io mi trovavo la mia compagna che stava nella villa della famiglia nobile a Gressonei e un'altra compagna che invece magari stavano in otto in un bilocale. Cioè, è surreale. Tra l'altro è anche difficile trovare degli spazi, dei momenti con magari cinque fratelli, tutti devono fare lezione, cioè, nel senso, è una cosa che è possibile perché ha le possibilità di farlo, pure chi non ha una rete wifi, chi non gli funziona bene. Poi molto spesso i professori pensano che uno magari cerca un po' di farla franca, no? Invece in realtà c'è chi si trova in situazioni difficili per fare delle cose simili. Sicuramente questo ha creato tanta disparità all'interno delle classi. Era obbligatorio seguire la lezione, per esempio, quelli che la facevano? Non hai il dovere, non hai delle conseguenze se non ascolti, se non fai questo, se non fai quello. Che da un certo punto di vista in realtà è meglio, no? Perché una persona sa meglio come gestirsi, come non gestirsi. Non è proprio, non sei costretto ad andare a scuola, non è un obbligo di presenza. Che effetto fa? È strano, i primi giorni è stranissimo. Io le prime lezioni entravo, dormivo e poi alla fine mi svegliavo, ciao, e me ne andavo, cioè una cosa così. Poi invece mi sono reso conto che quanto era assurdo per me era assurdo per i professori, ed era molto divertente questa cosa. E quindi in realtà sono state verso la fine delle lezioni non meno didattiche, ma didattiche da un punto di vista differente, cioè che c'era magari del dialogo, delle discussioni che sono al di fuori delle cose puramente didattiche, perché è poco facile farle in un contesto simile. Quindi magari discutevamo di questa situazione e allora ci davamo tutti contro ed era bellissimo, perché discutevamo, che è una cosa che in classe non succede mai. Poi, facendo ad esempio italiano, abbiamo fatto i Promessi Sposi, c'è l'epidemia della peste, c'è la pandemia della peste, e allora là si crea una cosa un po' parallela, no? E quindi si discuteva con la professoressa, che anche un po' lei non si è mai aperta così, invece lei si metteva a parlare, a farci riflettere. Cioè, sono delle cose che effettivamente in classe non ci ha mai fatto fare, cioè, e quindi... Io quello che mi è dispiaciuto è che non si è riuscito a fare una riflessione sulla valutazione, cioè a rompere questo meccanismo, nel senso che al liceo si è rotto per una questione proprio di, come dire, di legge, cioè io non ti do gli strumenti per partecipare alle lezioni, quindi poi non è che ti posso valutare su queste robe qua. Dalla prima settimana la gente si è messa l'anima in pace, si sapeva che non si sarebbero fatti verifiche né niente, quindi fine della storia, tutti promossi, fine della storia. Invece in università è un po' stato il contrario, nel senso che si stanno inventando qualsiasi tipo di mezzo possibile per controllarti durante l'esame e farti comunque l'esame scritto a crocette però online, quindi fammi vedere la camera dove sei, software di controllo del tracciamento dell'eye tracking, le ombre che si muovono, allora vuol dire che stai copiando, eccetera, che sono roba un po' assurda. Invece si poteva scardinare questa roba qua della valutazione, ma purtroppo non è successo. Alcuni professori al posto di fare, diciamo, l'esame, hanno fatto scrivere degli elaborati e poi hanno valutato quelli, però ti hanno valutato comunque. Tutti comunque alla fine hanno fatto l'esame è sempre in trentesimi, il voto è sempre individuale e c'è sempre chi è stato bocciato. Quindi a quel punto all'università erano fatti tuoi, o riuscivi a seguire, avevi il computer eccetera, oppure erano fatti tuoi. Purtroppo una riflessione su questo non si è fatta, magari era l'occasione giusta. Si può fare un collettivo universitario online? È assolutamente impossibile, quindi nessuna forma di organizzazione del dissenso è nata in nessun modo. Poi vabbè, certo, dopo, a posteriori, le borse di studio, slegarle dal merito e altri tipi di rivendicazioni, però dopo, cioè dopo la fine del lockdown, durante, non c'è stato. Perché comunque proprio non c'era neanche, appunto, in una classe di 200, anche se fai la lezione live, come fai a discutere di qualcos'altro? Già è tanto se riuscivi a fare una domanda perché non avevi capito. E voi riuscivate a discutere tra di voi invece, studenti? Non senza litigare, però questo un po' sempre. No, cioè, ma a trovarvi, a parlare? A trovarci, no, ma non c'era neanche la voglia di trovarci. Cioè è una cosa che non vale proprio la pena. Invece l'università... alcuni corsi sono a scelta, su 200 l'idea di classe non esiste, quindi il gruppo classe non esiste, fine. Non c'è, però il collettivo universitario c'è. Collettivi universitari sì, sono sopravvissuti alla pandemia, ma non durante la pandemia si sono fatti webinar, cose del genere, e quindi Zoom, però ovviamente è stato tutto un decadimento, nel senso i numeri si sono ridotti e le iniziative comunque non sono state molto partecipate, e fondamentalmente appunto non c'è, cioè la dimensione del collettivo universitario fondamentalmente sono le feste, la socialità, le piazze eccetera, soprattutto in una città piccola come Padova, e senza quella dimensione lì è andato tutto a schifo. E voi anche? C'è qualche collettivo che invece ha fatto delle videolezioni, tipo con degli ospiti aperte su Zoom e così, però personalmente mi sembrava un po' surreale trovarsi su Zoom. Cioè, una cosa che comunque il nostro collettivo politico pone da sempre, c'è stato un sacco di dibattito su Zoom, sulla privacy, sulla non privacy, quindi diventava assurdo, no? E poi dipende anche dalla scuola che hai. A scuola nostra la situazione è un po' difficile, perché c'è da fare un lavoro più grande, invece è poi questione di differenze tra scuola a scuola. No, ma tra di voi? Tra di noi ci siamo visti, però le cose di cui parlare erano poche, che eravamo là, ci sentiamo mezz'oretta, ok, va bene, c'è questo, c'è quello, poi sì, basta. L'istituto, ma non si può fare, ma perché... Perché è assurdo, perché no, ma perché la scuola non... dipende da contesto a contesto. Nel contesto nostro, io posso parlare di questo, della mia scuola, non è il posto giusto per fare delle cose simili, cioè non funziona. Bisogna farci un lavoro, lavorarci dietro per fare in modo che magari tra un paio d'anni funzioni, però oggi come oggi non funziona. Anche al di là del collettivo universitario, le assemblee su Zoom sono produttive un quarto rispetto a un'assemblea dal vivo, e io me ne sono reso conto alla prima assemblea dal vivo dopo 3 mesi. Era così che si non ci capivamo perché eravamo su Zoom, non perché siamo diventati tutti antipatici. Le assemblee diventavano cortissime e si trattavano pochissimi temi, non si arrivava a un punto, quindi assolutamente inconcludenti. Noi che comunque anche altre assemblee al di fuori dell'università, che mediamente durano 4 ore, sono tostissime eccetera, le abbiamo spezzettate in 2 assemblee da 2 ore alla settimana anziché una sola, ma comunque non concludevamo un cazzo, quindi cioè è stato deleterio. Funzionava molto di più chiamarsi uno alla volta al telefono, e allora io ho capito che più che l'assemblea su Zoom bisognava sentire tutte le persone, discuterci una alla volta, pressarla affinché chiamassero gli altri per convincersi, ed è diventato molto una roba tra individui più che un gruppo allargato, che non va bene. Secondo me non va bene. No, è stato deleterio. Infatti, cioè, vari collettivi si sono sciolti in questi 3 mesi, non tutti sono sopravvissuti. Andiamo veloce, passiamo alla seconda parte della chiacchierata con i ragazzi. Quindi, diciamo, quella cosa che io avevo pensato non è vera. Avevo pensato che ci potesse essere un aspetto anche liberatorio da questa cosa. Che uno non è costretto ad andare a seguire. Cioè, come dire, tu sei messo di fronte a quella materia, vabbè. Se ti interessa, ti puoi leggere un libro, un'altra cosa, sei meno cronometrato nel tuo quotidiano studiare. Nel caso vostro, appunto, probabilmente era chiaro fin da subito che non ci sarebbe stata una grande selezione, no? Cioè che più o meno vi avrebbero promossi tutti, in tutti i casi, giusto? Per cui uno poteva anche dire, promessi sposi, me li leggo un po' come mi va. O se non mi vanno li leggo, perché ci sarà stato qualcuno che non li ha letti. Nel senso, io sono un gran fan dell'utilità del copiare, cioè alla fine molto spesso copiare è più didattico di imparare le cose a memoria. E infatti anche là tanto mi sono un po' arrabbiato quando c'erano i professori che dicevano faccio della scrivania così. Cioè, alla fine, me lo dicevano anche voi. Sì, ci vuole anche un po' di impegno per copiare, no? Più divertente, affronti la disciplina in modo più divertente e magari impari di più che a studiarsi le frasi a memoria. Però non lo so, questa è una cosa che penso io. Compagni, amici, così funziona. Io ho provato a vedermi un paio di volte con gli amici in videochiamata, però faceva ridere, cioè, nel senso che non aveva senso, era una roba allucinante. E poi come persona, cioè, ci tengo sempre a vedere la gente dal vivo, avere un contatto visivo, no? Mentre così era tutto molto più freddo e poi è divertente, la prima volta che lo fai è divertente, poi ti rompi il palco. Sì, io i miei amici hanno fatto qualsiasi tipo di cosa, dalle sabato sera in discoteca su Zoom, tutta questa serie di cose, gli aperitivi su Zoom. In generale comunque l'effetto è stato che la cerchia sociale si è ristretta tantissimo all'osso. Tantissime persone si sentivano sole e hanno ripreso relazioni che non riprendevano da tempo e che magari avevano abbandonato, quindi il ritorno degli ex su WhatsApp proprio tipo per mille, perché uno non sa più chi conoscere, non sa con chi messaggiare, magari non ha coltivato delle relazioni, diciamo, solide, e allora si riattacca a quelle vecchie. E questo fenomeno appunto di risentire gli ex è proprio, secondo me, è stato un fenomeno di massa, cioè sociologicamente rilevante come cosa. Ovviamente uno non si può fare nuovi amici, come fai a farti nuovi amici? È più un ritornare a vecchie relazioni. Anche voi, più o meno, sì. Cioè, nella tua... Si vede già sui social, perché vedersi anche in videoconferenza. già vedo le tue storie. So già tu sei a casa anche tu. Però, cioè, delle cose positive in realtà ci sono, nel senso, il fatto che comunque le lezioni siano registrate è una cosa positiva. Io già l'anno scorso, andando in Erasmus in Olanda, che è un posto serio, diciamo, tutte le loro lezioni andavano direttamente in streaming, perché dentro le aule avevano una telecamera che puntava sul professore, automaticamente riprendeva anche lo schermo, le slide, e automaticamente le metteva 5 minuti dopo la fine della lezione direttamente online. E quindi appunto è questa cosa duale, cioè c'è sia in presenza che registrato. Questo, diciamo, è utile, nel senso che tutte le registrazioni, passami la registrazione della lezione, passami le sbobinature, queste robe qua non esistono più, però ovviamente una cosa non sostituisce l'altra, no? Quindi a settembre si dice riprendiamo col duale, che sarebbe la cosa giusta. Però ovviamente qual è il problema? Che ci troviamo in un'università italiana che ha fatto investimenti in questa direzione zero. In Olanda già lo facevano. A psicologia hanno speso, a psicologia da Padova hanno speso 270.000 euro per 100 e passa telecamere in cortile contro i ladri a prova di proiettile che mandavano tutti i dati in Cina, eccetera. Però dentro le aule non c'erano le telecamere che riprendevano la lezione, capito? Per cui i dati prima andavano in Cina e poi tornavano nel gabbiotto. Però se tu volevi accedere a quelle registrazioni dovevi fare denuncia, quindi assolutamente inutili per gli unici furti di biciclette che c'erano nel dipartimento. Dall'altra parte, invece, infatti noi proprio abbiamo detto stacchiamo le telecamere dal cortile e mettiamole in classe, questo prima della pandemia. Adesso a settembre dovremo fare le lezioni duali e non ci sono le telecamere. Vabbè, quindi voi avevate un collettivo che già si era posto questo problema. Sì, e non ha retto, non ha colto l'occasione. No, una roba assolutamente. Non è riuscito a approfittare della... Cioè, quando noi dicevamo che la stessa azienda delle telecamere... È troppo forte. Cosa succederà? Avete idea? Boh, io speravo comunque tantissimo che venisse messa in discussione anche la questione appelli. Ancora oggi mi chiedo come faccia un professore a pensare un giorno di fare online l'esame orale a quante persone. Ancora ci sono due appelli, perché non mettiamo neanche questo? Poi non so, per il liceo o con quelle superiori, le verifiche, le interrogazioni, non c'è stato niente. Sì, va, le verifiche, tutto quello che c'è stato era molto, molto più... con meno serietà rispetto a ciò che c'era in classe, che però io ritengo ancora che non è per forza un lato negativo, cioè non è sempre un male che la situazione sia un po' più informale, che sia un po', che si lascia un po' più libertà magari di interpretazione, non lo so. Ma avete idea di cosa succederà l'anno prossimo? A settembre no, forse fanno così, cioè in base ai metri quadri di ogni classe decidono quante persone far stare in classe e quante invece in videochiamata. Tutto questo fare una lezione con magari 10 persone in classe e 10 persone in videochiamata nello stesso momento. Che vabbè. Con che criteri si potrebbero dividere? È in base ai metri quadri delle classi. Ma quale gruppo di studenti starà a casa? E A casa. Volontario. Ma anche faranno estrazione. Allora, saranno la classe degli asini e la classe di quelli bravi. Quelli che sono bravi. Diciamo, questa qua era la prima bozza che è girata del decreto scuola. La bozza definitiva dice ci deve essere un metro di distanza, tutti in presenza, le mascherine, se metterlo o no lo deciderà il comitato scientifico 2 settimane prima dell'apertura della scuola. Che significa si torna alla normalità, fondamentalmente. Che non si può fare, cioè in certi posti non si può fare. Che se ci sarà una seconda ondata di epidemia non sarà assolutamente fattibile. Vabbè, supponiamo che non ci sia il ritorno, cioè per adesso non lo sappiamo, non si può dire, però un metro di distanza almeno in tutte le classi si può fare. Nella mia classe non si può fare. Ci sono delle, ma anche da voi, scusa, 200, sì. Io avevo fatto lezioni in aule da 200 persone, ma eravamo come al cinema, seduti in file strette, non ci stavamo mai. Il responsabile della mia scuola ha detto al 25%. Delle persone. Quindi devono aumentare i corsi. Tanto se stai dentro uno spazio chiuso. Io ho una domanda per entrambe le situazioni, Milano e Padova. Allora, da quello che dite, i collettivi universitari, le realtà più o meno organizzate, sono rimasti altamente spiazzati da questa situazione, non sono riusciti a condividere e anche la percezione, il vissuto, quindi hanno sostanzialmente sospeso, limitato grandemente la loro attività in tutto questo periodo. Adesso che si prospettano problemi organizzativi di funzionamento dell'università, c'è in atto una riflessione, stanno venendo fuori delle proposte, ci sono delle sollecitazioni da parte degli studenti oppure no? Qual è il futuro prossimo dal punto di vista soggettivo? L'unica campagna che effettivamente è stata un po' incisiva è quella dello stop agli affitti, che però stiamo sempre parlando di cose assolutamente residuali, purtroppo. Poi è ovvio che collettivo universitario a Padova fondamentalmente si basava su i festival universitari, le conferenze di Ateneo, in generale la socialità, l'auletta, che sono tutte cose che sono completamente scomparse. Diciamo quantomeno in pausa, speriamo non scomparse del tutto ovviamente. E questa roba qua cosa significa? Che poi diciamo il gruppo universitario, sì, a Milano, anche a Padova abbiamo fatto la distribuzione della spesa solidale, abbiamo fatto tutt'altro tipo di cose. Però diciamo vertenze sull'università, adesso si sono date delle vertenze sull'università, assolutamente non di massa, ma soggettive, eccetera. E lì si vede anche la disparità tra le risorse delle varie università, perché la mia università di Padova, che è una tra le prime d'Italia, ha detto che pagava la connessione a tutti, dava a disposizione tablet, ha pagato Google per far avere, oltre alla mail, anche lo spazio su Drive, che vabbè, diciamo, io la dico come cosa positiva, perché altre università non hanno fatto neanche questo, no? Quindi c'è questa cosa qui comunque della sospensione dell'ultima rata, che di fatto noi, gli studenti, non hanno utilizzato le strutture d'Ateneo, ma stanno continuando a pagarle, perché la maggior parte della spesa dell'università va nella mensa, nelle biblioteche, nelle aule studio, nelle aule ovviamente, che sono tutte robe completamente ferme. Il professore, che è quello che diciamo è rimasto, alla fine rispetto al costo complessivo dell'università è una virgola. E ciò nonostante invece noi abbiamo continuato a pagare tutto, abbiamo pagato servizi che non abbiamo ottenuto, cioè che non abbiamo potuto usare. Ma questa roba qua purtroppo, cioè, per il momento non ha creato un'indignazione significativa. Ovviamente tutti i collettivi hanno fatto dei piccoli presidi in varie città. Questa roba dell'affitto è stata combattuta anche durante la pandemia, che comunque è una roba molto rilevante, e addirittura la battaglia contro gli affitti è stata globale, nel senso che anche in America, ancora prima di Black Lives Matter, si è dato un percorso su questa cosa, in Francia si è dato, eccetera. Ma cioè, quel ripensamento della valutazione, ripensamento della didattica, tutte queste robe qui non sono temi che sono all'ordine del giorno della vita dell'universitario italiano medio, zero. Io, diciamo, ho visto proprio la privatizzazione dell'università, cioè questo è stato il fenomeno. Non eravamo pronti e abbiamo svenduto fondamentalmente a questi giganti tecnologici una infrastruttura pubblica. Se le lezioni vengono fatte su Zoom e non nelle aule, e se le aule varranno meno e ce ne saranno sempre meno in prospettiva, vuol dire che quella che era un'istituzione pubblica in spazi pubblici invece andrà su piattaforme private. E l'investimento che ha fatto l'università in digitale è investimento che verrà sottratto a ristrutturazioni di beni pubblici, che sono le aule. E quindi noi abbiamo fondamentalmente regalato un botto di soldi a Google, a Microsoft, a Zoom, eccetera, ma soprattutto abbiamo regalato un pezzo dell'infrastruttura universitaria, che nessuno ci ridarà indietro. Quindi ovvio che, diciamo, immaginare un software sviluppato dal Dipartimento di Informatica dell'Università di Padova è praticamente un'utopia, no? Che sarebbe invece la cosa giustissima. Cazzo, abbiamo un Dipartimento di Informatica, facciamoli mettere su una piattaforma dove si possono caricare due video. Adesso non voglio semplificare, però anche avere un indirizzo mail di istituto non sarebbe una cazzata. Adesso noi siamo tutti su Google, quindi i professori hanno Google Premium, eccetera, e quindi hanno tutti i loro lavori su Drive. Di fatto Google conosce l'istruzione italiana, l'università italiana, meglio della stessa università. E se io fossi Google e dovessi scegliere un professore, potrei andarmi a vedere le ricerche che ha fatto, potrei vedere con chi ha condiviso i suoi file, quanta parte dei suoi file che poi sono stati pubblicati ha scritto chi, quando, come, a che ora lavora. Tutte quelle informazioni là noi le abbiamo regalate completamente a Google, non ci rendiamo conto, io non mi rendo conto, posso immaginare, dico, cosa ci vuole a fare un professore, cioè a fare un programma di matematica in Italia avendo tutte le lezioni di tutti i professori di matematica d'Italia. Adesso con database molto più piccoli allenano algoritmi che fanno cose molto più complesse. E questo è tutto un valore che noi abbiamo perso totalmente, che abbiamo regalato, anzi abbiamo pagato per regalare. Ecco, finiamo così questa intervista con gli studenti, riprenderemo questo argomento della scuola con loro più avanti, però nel frattempo lo studio si è riempito, lo studio virtuale e anche un pezzo dello studio fisico, e quindi teniamo aperto questo tema e adesso Nemo ci racconterà qualcosa sulla discussione che c'è stata attorno alla DAD durante le 3 giornate contro le tecnoscienze che si sono tenute ad Altra Dimora a Caranzano in provincia di Alessandria. Vai. Sì, ciao. Allora, si sono toccati tanti temi all'interno di questa discussione, dibattiti. In particolare, appunto, visto che si stava parlando di didattica a distanza, se ne è parlato anche in questa occasione. Anche visto che, dato che appunto molte persone dei presenti erano insegnanti, c'era anche qualche studente, e la critica è stata sicuramente feroce, ma abbastanza senso, mi viene da pensare, perché è vero che appunto, come anche si diceva come nelle interviste, le università si sono appoggiate, non solo le università, l'istruzione in generale si è appoggiata quasi completamente a software di case proprietarie che insomma hanno così avuto accesso ai dati di un po' tutti gli studenti, i docenti, a parte qualche rara eccezione come la Cattolica, che ha avuto i mezzi per insomma istituire una sua piattaforma in cui poter fare la sua didattica esclusiva. E altri dubbi sono stati appunto, sicuramente il fatto che la scuola già da tempo subiva un declassamento e una serie di tagli che l'hanno mutilata totalmente, fino anche a perdere insomma quel carattere di non solo di diffusione della cultura che poteva avere, ma anche di rapporti interpersonali che si venivano a creare, e questo con la didattica a distanza è stato un po' il colpo di grazia, perché appunto il fatto di non vedersi fa perdere qualsiasi possibilità di comunicazione umana e diretta con insomma le risposte in tutto il linguaggio corporeo e fisico che va oltre insomma quello che può passare da uno schermo. E poi molti dubbi hanno toccato ad esempio il fatto che le scuole dessero, cioè le scuole che appunto venissero dati tablet agli studenti in qualche occasione, perché appunto neanche tutti li hanno ricevuti, e poi il fatto che siano tablet e insomma che abbiano una capacità di controllo delegata completamente al fabbricante, anche lì è ovvio che insomma sicuramente se bisogna scegliere se dare agli studenti un tablet o un computer, la scelta ricadrà sul tablet, perché rappresenta in qualche modo una possibilità di controllo maggiore. E appunto in ultimo si parlava del fatto che appunto, dato che le scuole già sono ridotte molto male economicamente, le scuole pubbliche quantomeno, fosse un modo ulteriore per tagliare i fondi di tutto il personale che lavora nella scuola ma non è direttamente nel corpo docenti, e quindi appunto il personale ATA e via dicendo. Si è anche accennato a un pensiero interessante che è appunto quello delle scuole clandestine, ovvero la possibilità di riformare delle scuole slegate dalle istituzioni e indipendenti a loro, insomma, stanti a parte. E questo era un tema abbastanza interessante, almeno a mio parere. Poi vabbè, si sono toccati una serie di molteplici temi che vanno da il dubbio sul pensiero scientifico e alle, insomma, alle questioni che può comportare, a, insomma, la dannosità di certe tecnologie, serie di movimenti che vanno poi tutti a indicizzarsi contro il 5G, ma che comunque non, cioè, deve essere una critica che non è limitata a questa cosa, perché appunto il 5G, vabbè, insomma, una serie di temi tra cui il senso del rifiuto della tecnologia, il senso del limite, del limite nell'uso e nell'essere usato la tecnologia, e dove porlo appunto in base a quali comprensioni piuttosto che a quali bisogni, una serie di distinzioni che è importante. Comunque di questo se ne potrà parlare eventualmente più avanti, considerato che ci saranno appunto delle registrazioni che sono state fatte e che verranno poi sviluppate nei temi più approfonditamente. Passiamo adesso a qualcosa di completamente diverso e cambiamo addirittura continente per andare a Portland, e abbiamo con noi in studio Gnom che ci sta ascoltando. Ciao Gnom. Ciao a tutti. E, in pratica quello che sta avvenendo è abbastanza curioso. L'altro ieri ci sono state per 2 giorni proteste in 25 diverse città degli Stati Uniti, ma soprattutto il fuoco è stato a Portland, in quanto a Portland sono oramai 60 giorni di fila che avvengono delle proteste ininterrotte e il presidente americano Donald Trump ha mandato l'esercito, cioè esattamente l'esercito federale in mimetica. Per come breve introduzione io farei mi sentite? Scusate. Sì. Oh, scusatemi, ho avuto un mancamento. Volevamo introdurlo con un articolo scritto da un giornale dell'Oregon, il quale intitola così: più di 50 giorni di proteste ininterrotte di qualche giorno fa, il presidente USA ha mandato l'esercito, e spiega come si è arrivati a questa militarizzazione dello spazio. Nella lunga storia delle proteste per la giustizia razziale a Portland il 1 luglio, era già tanto tempo fa, i manifestanti hanno creato un appuntamento giornaliero al Mulholland County Justice Center, cioè il tribunale. Il cancello attorno all'edificio è già stato abbattuto. Mi dicono, per il bello della diretta, che in questo momento ho la voce strana che stride un po' come sembra Paperino. Non è colpa mia, è colpa del microfono. Inizialmente tutto ciò è stato visto come un problema minore, paragonato alla polizia di Portland, che già usava delle impact munitions, cioè dei proiettili di gomma, e tear gas, cioè gas lacrimogeni, mandati dal presidente Donald Trump. L'obiettivo dichiarato degli agenti federali era di proteggere i palazzi federali, ma il 4 luglio la missione è cambiata quando hanno scacciato i dimostranti attraverso il quartiere, allontanandoli ben oltre le proprietà federali. Nelle due settimane che sono seguite la tattica è diventata sempre più aggressiva, mandando all'ospedale almeno una persona e poi levando gente dalle strade di Portland su veicoli senza insegne. E solo a questo punto ci si è cominciato a domandare a livello nazionale se Portland non fosse una città sotto assedio. Nei giorni successivi i federali sono diventati effettivamente la forza occupante della città. All'inizio la polizia usava molti lacrimogeni, ma il 5 giugno un giudice ha imposto di limitarli a solo a casi eccezionali in cui si è a rischio la vita delle persone, e questo ha limitato di molto l'azione della polizia. È stata passata una legge che ha imposto alla polizia di annunciare l'uso di lacrimogeni alla folla. Prima di farlo devono annunciare che stanno per lanciare i lacrimogeni e devo dichiarare che sta avvenendo una rivolta, cioè un riot. Per la legge in Oregon però bisogna dire che bastano almeno 5 persone per fare una sommossa. Negli stessi giorni Trump firma un ordine esecutivo per proteggere le statue e i monumenti e definisce violenza criminale le proteste contro la violenza poliziesca scaturita dall'assassinio di George Floyd il 25 maggio, che sembra ormai tanto tempo fa, a Minneapolis. L'ordine di Trump deriva dal fatto che molte delle statue figuranti schiavisti e generali venivano rimosse dai manifestanti, compresa a Portland quella di George Washington e di Thomas Jefferson. La US Customs and Border Protection se n'è uscita con un memo in luglio dove ha menzionato la creazione di una forza particolare del DHS, cioè il Dipartimento di Homeland Security, che è un dipartimento speciale creato nel 2001 in risposta all'11 settembre e che ha lo scopo di monitorare i confini in prevenzione del terrorismo. Da quel momento l'azione degli agenti federali comincia a essere molto più attiva. Una notte escono in elmette mimetica dalla porta del tribunale e sparano pallottole al peperoncino ai manifestanti che si avvicinano troppo all'edificio. La comparsa dei militari cambia la natura della protesta. Prima la gente aveva a che fare con la polizia e siccome avevano delle domande specifiche per la polizia a cui chiedevano di essere responsabili, cioè accountable, per gli atti di violenza commessi e chiedevano il defund, cioè il taglio dei costi, in questo senso stavano praticamente dialogando attraverso il conflitto. Avevano già ottenuto di revocare una legge controversa sull'uso delle armi e spostato ben 16 milioni di dollari dal budget della polizia a programmi per la comunità. Ma con l'esercito federale sembra che nessuno sia in grado di attribuire una responsabilità al loro operato. Non c'è nessun tipo di dialogo con l'esercito. Il 4 di luglio i festeggiamenti vengono sospesi a causa della pandemia, ma la manifestazione si è tenuta comunque. I manifestanti ballavano, cantavano e anche lì sono intervenuti i militari a disperdere la folla con lacrimogeni, pallottole di gomma e delle flashbang device. I manifestanti hanno organizzato dei fuochi artificiali mandandoli contro i palazzi federali e a questo punto è intervenuta la BORTAC, cioè la Border Patrol Tactic Unity, agenti speciali della Marshall che sono usciti in assetto da guerra riempendo le cortine di gas e usando detonatori. Si sono disposti in linea e hanno marciato spingendo la folla lontana dal quartiere di fianco. Io direi che mi fermo un secondo, ma... Pronto? Pronto, pronto! Ma vado avanti pronto. Così, sto andando avanti troppo, come un trenino, non ha senso. Sentiamo Joshua che cosa ha da dire. Hi Josh. Ciao. Non so dove esattamente iniziare, che posso spiegare meglio che l'articolo che avevi letto già. Ma se vuoi intanto ci puoi raccontare della tua esperienza, visto che sei a Portland e hai partecipato alle manifestazioni, soprattutto quella degli ultimi due giorni. Sì. L'ultimo due giorni sono andato a venerdì sera e sabato sera. Venerdì, anche la settimana prima, ho visto tanti live stream, quasi tutte le notti, che ora sono, io non so quanti giornalisti che fanno live stream quasi tutte le notti, anche so un sacco di coverage con Twitter, comunque è più o meno facile a meno vedere, sì, partecipare, certo che no. Comunque venerdì sera sono andato al centro di le proteste più o meno sono concentrate in due uffici, il Palazzo di Giustizia federale, che è il di Mark Hatfield, anche c'è la serie della polizia, il Justice, il centro. Anche più o meno il ritmo, l'agenda è lo stesso. Sono gente che si parlano, c'è un'atmosfera di festa più o meno, festa musicale. Sono tanti musica, sono battuti, sono cose così, e a qualche punto gente arriveranno più o meno a fronte al Palazzo di Giustizia, cioè poi sono cose di fuoco artificiale, a qualche punto il gas, che se, perdonami, non posso pronunciare questa parola a questa ora della mattina, e più o meno ora la gente più o meno non hanno paura del gas, e lanciano il gas e tutti va, non lo so, una strada più o meno, aspettiamo il gas per andare e poi torniamo a ufficio. A qualche punto della mattina gli agenti federali escono dall'ufficio per fare spazio più ampio circa l'edificio, e la gente va a continuare, non so che ora della mattina, dipende dal giorno, e dipende dalla gente, dipende dalla polizia. Più o meno mi sembra più del circolo di mobilazione vicino a Genova e Seattle, e questo circolo di lotte. Joshua, posso chiederti quali sono le parole d'ordine, gli obiettivi, le rivendicazioni di queste giornate? Oramai tante, eh? Scusa, non l'ho sentito, si può ripetere? No, ti chiedevo quali sono gli obiettivi, se ci sono delle richieste, degli argomenti, diciamo, di queste, le parole d'ordine. È buona domanda. Non c'è niente, e c'è un confuso, perché sono tanti gruppi, non ho incontrato una struttura per organizzare queste domande. Sono certo che la maggioranza, quasi tutto, sono contro il razzismo dello Stato più generale. Anche sono tanti genti che vogliono che gli agenti federali fuori la città, anche contro la sua violenza contro le manifestanti, che il sindacato è arrivato 4-5 giorni fa, e lui anche ha ricevuto il piano o faccia di gas, ma lui anche il capo della polizia e la sua polizia hanno lanciato il mismo quantità di gas contro i manifestanti. Comunque non mi sembra c'è, se sono obiettivi fermi, nel senso di dopo questo le manifestanti sarebbero felici e pronto a tornare a casa. Anche per questo mi sembra un po' il circolo di Genova. Joshua, una cosa che ci dicevi l'altro giorno è che i manifestanti hanno cominciato ad adottare alcuni degli slogan di Hong Kong, come il Be Water. Sì, ma più non c'è esattamente un slogan con un aggettivo, ma più un slogan di una tattica di come confrontare la polizia. Ma anche sì, comunque c'è un'altra cosa, anche mi sembra per i documenti che stanno online sono anche c'è un forse non c'è intercambio esattamente, ma alcune persone ha l'occhio ha l'esperienza di Hong Kong e anche di Cile. Ok, ho visto che hanno cominciato a usare anche del polistirolo isolante, sorry, I don't remember how to say in English, intorno ai cancelli del tribunale per bloccare la visibilità, per impedire agli agenti federali di sparare ad altezza uomo. Ah, come bloccare sui vestiti o per, mi dispiace, non ho capito. No, scusami tu, on the fences, sui cancelli intorno al tribunale. Ah, sì, sì e no, perché la forma dell'edificio normalmente non è facile a vedere come sei dentro l'edificio, ma anche con il fence è più complicato, ma non è questo. Prima hanno messo il fence più o meno una settimana fa, ma i giorni prima le manifestanti arrivavano per battere contro le porte, ma più o meno la stessa dinamica, più o meno urlavano contro le porte e poi i genti usciano e un po' di gas e una baila più o meno. Mi dispiace, ma non per me un confrontazione importante, forse nel livello politico, ma allo stesso tempo mi sembra una baila, una rituale più di un conflitto puro o conflitto di vero. D'accordo, cioè cosa ne pensi del conflitto che sta avvenendo in questo momento tra le autorità locali, cioè il sindaco di Portland che ha chiesto ai federali, al DHS, di andarsene dalla città, dicendo che stanno creando un'escalation, stanno radicalizzando i manifestanti? Credo che fra autorità locale e federale non mi sembra più o meno finta, falsa, perché credo che c'è più il sindacato ha più potere per bloccare il potere del governo federale. Vale. Aspetto di manifestanti sì, anche forse, ma la città di Portland non lo so. Avremo una lezione fra novembre per il sindacato e non lo so se lui non lo so che se questa fa danno a suo messo di rielezionare, ma chissà, perché non ho visto niente. È difficile a dire quanti profondi sono i radici di manifestanti di Portland, e c'è un certo che era un'azione di radicalizzazione di manifestanti, e per Portland c'è sabato sera c'erano come 5.000 persone alle mezzanotte, certo è grandi, ma per città di più di 600.000 persone non è abbastanza per cambiare un'elezione. Per questo ho paura che c'è, non è abbastanza, che non abbiamo fatto profondo radici per cambiare il livello di strategia di come si governa la città. Mi introduco solo per un'osservazione. Quando tu dici sindacato intendi sindaco? Cioè, sindaco. Sì, ok. Va bene. Vi metto un pezzo musicale. O ditemi voi. Vai, metti. Scusa, ho avuto un altro problema. Sì, sindaco, è più o meno la rabbia della manifestante contro il sindaco e gli agenti federali, ma più o meno, io come vedo le cose, le ste continuano, ma io non so esattamente come amplificare, come incontrare radici più profondi, come cambiare la città più in modo possibile. Avrei un'altra domanda, poi prometto la smetto. Volevo chiederti se a Portland, che è una città che non conosco, ci sono state delle conseguenze economiche a seguito della pandemia, che forse negli Stati Uniti è ancora molto forte, cioè se la città ha pagato dei prezzi, soprattutto la popolazione più povera esposta, e eventualmente se questo è un rapporto c'è con queste manifestazioni di cui ci raccontavi. Spero di sì, però davvero non lo so come, perché alcune settimane fa sono andato a una manifestazione più locale, in un quartiere, più o meno nel mio quartiere, contro disoccupazione, e anche perché meno che il sociale che hanno fatto all'inizio del pandemico. E qui negli Stati Uniti il livello del supporto è più o meno è una merda, non c'è abbastanza. E durante questo periodo il numero per una dimostrazione era più o meno 1.000, più dico. Ma questa manifestazione c'erano solo 100 persone, forse 200. Comunque io non lo so esattamente questa forza contro il razzismo, contro il governo federale, agenti federali, come si diventare con una forza per andare contro il dolore che vengono con con gli effetti economici della, con effetti economici della pandemico, e per questo ho paura più di tutto. Va bene, allora ringraziamo Josh. Ringraziamo Josh, gli chiediamo di restare in contatto e di aggiornarci, di farci sapere quello che succede. È in un punto di osservazione molto interessante, ed era anche interessante quelle sue valutazioni e le sue perplessità. Quindi diciamo ci aggiorniamo, ecco, non è un salutarsi ma è un aggiornarsi. Siamo in chiusura, direi che siamo in chiusura, e faccio grazie. Sì, grazie a te. Sarò là, sarò qua, parliamo nel futuro. Sarò per tutta la città, bravo. E, una comunicazione, stanno arrivando diverse multe, diverse centinaia di multe a seguito delle manifestazioni degli ultimo mese e mezzo, credo a partire da quella tenuta sotto la regione avanti, forse addirittura, anzi sicuramente anche per quella del 25 aprile, per quelle piccole poche che ci sono state il 25 aprile. Non abbiamo un'idea di quante persone siano coinvolte né quali. Certo, l'operazione è grossa, arrivano, sono delle multe, delle sanzioni come se fossero delle multe stradali sostanzialmente, a cui è possibile fare ricorso. Sappiamo che un gruppo alla panetteria in via Conte Rosso ha preso un po' in mano la cosa e si sta occupando di questa faccenda. Sul sito loro, sulla loro pagina Facebook, ci sono delle indicazioni e ci sono delle considerazioni. Niente, il nostro parere da qua, è, piccoli come siamo, è che la cosa di per sé si configura come molto grave e che andrebbe in qualche modo affrontata in maniera collettiva, attraversando l'eterogeneità di soggetti che vengono colpiti da questa misura, che di fatto può, diciamo, avere un effetto deterrente su qualunque iniziativa collettiva futura, prossima e anche sul lungo termine, e quindi auspichiamo che in qualche modo venga dato, prenda corpo, diciamo, una iniziativa collettiva in merito. Basta, io la comunicazione l'ho fatta, avevamo in mente di fare anche un altro paio di cose che non rifacciamo, che non faremo perché è abbastanza tardi. Che dici, Dan? Dico che sì, vi saluto, vi abbraccio. Aspetta. Ma anche sul sito della panetteria. Ecco, aspetta, scusa, c'è Nemo mi corregge, prego. No, che non è solo su Facebook, perché non avesse Facebook c'è anche il sito web La Panetteria Occupata, che comunque anche lì ci sono tutte le informazioni. Domani ci sarà un incontro appunto per parlarne, domani sera alle 9:30. Ottimo. Ecco. Quindi ci salutiamo. Ci salutiamo e mettiamo un pezzo di chiusura, lo metto io? Metti. Salutiamo tutti. Joshua, Nemo, Linoi, che non so se ci sente o non ci sente, e quelli che sono passati virtualmente dallo studio Mumble, e niente, noi vediamo di aggiornarci, ci aggiorniamo per settembre. Cisti, ringraziamo sempre per i pad che oramai usiamo molto, molto massicciamente. E grazie, basta, Joshua, vai. Grazie Joshua per l'aggiornamento da Portland. Joshua, certo. E speriamo di trovarti anche la prossima volta, anche non solo per Portland. Grazie a voi. Perfetto, Linoi dice che saluta anche lui, c'è e saluta. Perfetto, ciao. You didn't. meute, vous dormez au fond de nos cœurs. Maintenant, Nicolas et Bart, vous dormez au fond de nos cœurs. Vous étiez tout seul dans la mort, mais pareil.